2024 di Enrico Pagliarini. Benvenuti o bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Siamo in onda il venerdì tra le 22 e le 23, domenica in replica alle 13.10. E come sempre in versione digitale online il nostro super podcast con tutte le nostre interviste in edizione integrale. Se nelle prossime settimane alcuni prodotti elettronici aumenteranno di prezzo, è molto probabile che ciò sia dovuto all'aumento del compenso per copia privata deciso dal ministro dei beni culturali Dario Franceschini. Ricordiamo che si tratta di un prelievo a fronte del diritto del consumatore di poter fare una copia per uso privato, quindi per uso personale, di una canzone o un film, ad esempio, che una persona ha comprato legalmente. Qui non c'entra la pirateria, non è una ricompensa per la pirateria. Cioè stiamo parlando, io compro, che ne so, un CD musicale, un DVD video e per uso personale mi faccio la copia. Ma in un mondo che ormai sta velocemente passando allo streaming, questo è un risarcimento che appare ormai anacronistico, medioevale, anche perché ormai è molto difficile farsi la copia privata. Allora, per quanto riguarda il video è impossibile, ci sono sistemi anticopia che se uno li aggira commette un illecito, quindi per il video non si può fare, quindi tu paghi per un diritto che non puoi godere. Per l'audio è più facile, però stiamo appunto parlando di qualcosa che è sempre più difficile, o comunque sempre più difficile anche perché normalmente, diciamo, chi ascolta musica sempre più spesso lo fa con sistemi in streaming, così come il video. E purtroppo dobbiamo registrare che il ministro Franceschini ancora una volta ha deciso di stare dalla parte dei lobbisti che girano nei ministeri e non dalla parte dei consumatori, in un momento tra l'altro difficile per molti cittadini. E poi appunto il problema non è tanto il costo che un cittadino deve sostenere, parliamo di 3, 4, 5, 7 euro. Il problema è appunto che è una cosa anacronistica e molto spesso è anche tu paghi per un diritto che non hai, che non puoi tecnicamente avere. Ovviamente Confindustria Digitale e Anitec Asinform hanno protestato, ma ormai Franceschini aveva deciso. Giusto per avere un'idea, poi potete andare a guardare, vi consiglio di guardare su dday.it. Potete appunto guardare i dettagli. Giusto per un'idea, su uno smartphone si paga, su uno smartphone che ad esempio è tra i 64, una memoria tra i 64 e i 128 GB, 6,30 euro, oltre i 128 GB 6,90 euro. Pensate che vengono tariffati anche gli smartwatch. Ma chi è che si fa una copia privata sullo smartwatch, ammesso che uno sia in grado di farla? Allora, oltre i 32 giga sullo smartwatch paga 5,60 euro. Adesso alcune notizie in breve selezionate durante la settimana. Digital News. Sempre a proposito della notizia relativa al compenso per copia privata, questi sono soldi che finiscono alla SIAE, che poi li deve ridistribuire a tutti i detentori dei diritti a cui spetta appunto questo compenso per copia privata, trattenute ovviamente le spese. Dunque, sempre a proposito di questo, Gianfranco Giardina, che è sempre molto attento su questo tema, anzi direi se non l'unico, uno dei pochissimi attenti, e direi che se non avesse scritto nulla Gianfranco Giardina su dday.it ben pochi si sarebbero accorti di questa notizia. Allora, mi ha riferito che alcuni produttori di decoder e anche alcuni produttori di televisori hanno deciso di togliere la funzione di registrazione, quindi non pagare questo compenso, perché laddove non c'è la funzione di registrazione non si paga il compenso, da decoder e anche da alcuni televisori, magari non dai top di gamma, quelli che non costano tantissimo. Perché? Perché la competizione sul prezzo di questi apparecchi è talmente spinta, talmente estrema, che anche 2, 3, 4, 5 euro pesano e ti possono far perdere una fornitura proprio per pochissimi euro. Quindi sicuramente anche questa non è una cosa positiva, ed è anche per questo motivo che Confindustria Digitale e Anitec Asinform hanno protestato. Poi devo anche dire che questa firma è stata fatta scientificamente, mi verrebbe da dire, un venerdì della scorsa settimana, venerdì sera, quasi di nascosto, proprio prima del ponte molto sentito a Roma dei Santi. E quindi di solito quando uno fa una cosa positiva per i cittadini la pubblicizza con una conferenza stampa. No, in questo caso strategicamente è stato fatto in quel venerdì. Poi ognuno trae le proprie considerazioni. Dunque, tra le notizie più importanti della settimana c'è sicuramente l'operazione di polizia digitale partita in Francia nel 2017 ed estesa poi a Olanda e Gran Bretagna, che ha messo KO una rete di comunicazione criptata usata da decine di migliaia di persone. Molte di queste sono probabilmente criminali. Beh, alcuni sono stati arrestati, poi vi dico quanti. Allora, questa rete si basava, questo software, si basava su telefoni Android sui quali era installato appunto questo particolare software che criptava le comunicazioni. Tra l'altro, molto intelligente, un normale telefono Android, apparentemente normale, aveva la duplice funzione, cioè poteva partire o con un software normale o con il software con questo sistema di comunicazioni criptate, cioè aveva un dual boot. La rete e la società che forniva il servizio si chiama AncroChat ed è stata bloccata perché la polizia si è infiltrata nella rete. Allora, sono state arrestate quasi 800 persone. Sono state sequestrate 2 tonnellate di droga, decine di armi da fuoco e circa 50 milioni di euro. Poi questo telefono aveva anche il panic button, cioè una funzione di panico, cioè se tu venivi scoperto, magari la polizia ti prendeva il telefono prima che succedesse, cioè quando ti accorgevi che ti stavano per prendere il telefono, potevi schiacciare questo tasto e il telefono cancellava tutte le comunicazioni a rischio. Altre notizie dagli Stati Uniti: la Federal Communication Commission, l'agenzia americana che regola il settore delle telecomunicazioni, ha dichiarato ufficialmente Huawei e ZTE una minaccia per la sicurezza nazionale. Una decisione molto importante e molto pesante che si aggiunge a quella già adottata, quelle già adottate dal governo americano, che hanno di fatto messo fuori legge negli Stati Uniti Huawei e ZTE. Tra l'altro gli Stati Uniti, lo ricordo, stanno facendo una pressione molto molto molto forte su tutti gli alleati occidentali, europei compresi, per fare in modo che Huawei e ZTE vengano messe fuori dalle reti di telecomunicazioni. Ed effettivamente gli operatori di telecomunicazioni sono in una difficile situazione, perché quando devono scegliere nuovi apparati, che cosa fanno? Possono scegliere tranquillamente di comprare Huawei o ZTE in un momento in cui gli Stati Uniti spingono così tanto, e magari fra qualche tempo anche altri stati seguiranno gli Stati Uniti, così come hanno fatto ad esempio Australia e altri paesi, non tantissimi ma alcuni paesi del mondo. Dunque, a questo si aggiunge, sempre per quanto riguarda le difficoltà della Cina su alcuni mercati, si aggiunge la decisione dell'India di mettere fuori legge 59 applicazioni cinesi come TikTok e WeChat per motivi di sicurezza nazionale. In questo caso la motivazione, beh, anche quella contro Huawei e ZTE è prevalentemente politica, ma c'è anche un po' di tecnologia, perché gli Stati Uniti dicono: ma se noi abbiamo sempre spiato tutto il mondo, beh, sicuramente anche voi ci spiate. Poi il governo americano dice, ritiene di avere anche le prove. Comunque, anche questa è una notizia interessante per quanto riguarda la geopolitica e la tecnologia. Sempre in India, il braccio finanziario di Intel ha investito 253 milioni di dollari in Jio Platforms, un gruppo che si occupa di connettività fissa e mobile, servizi digitali e intrattenimento. Questa società, che ha appena 4 anni, vale 65 miliardi di dollari e ha 400 milioni di clienti. Facebook ha poco meno del 10% di questa società indiana. Jio Platform è di proprietà di Musek Ambani, che è l'uomo più ricco di India, che mercoledì ha lanciato Jio Meet, che è un servizio di videoconferenza copiato paro paro da Zoom, che attualmente è l'applicazione di videoconferenza più usata in India. Pensate che è passata da 4 a 35 milioni di utenti. Comunque è interessante, Jio Platforms, che è un bouquet di servizi che vanno da Jio Music, tipo Spotify, Jio Cinema, che è tipo Netflix, e poi c'è anche Jio TV, che ha 500 canali lineari televisivi. Allora, tutto questo, pensate, per $2 al mese, prezzi indiani. Entrato nella fase finale, il nuovo sistema unificato europeo di pagamenti, lo European Payment Initiative, promosso da 16 banche di Belgio, Francia, Germania, Olanda e Spagna, che sarà operativo dal 2022. Tra i fondatori c'è anche UniCredit attraverso la controllata tedesca. Questa iniziativa permetterà di creare una rete come quelle di Visa, Mastercard, almeno in Europa, e quindi le banche potranno offrire carte di pagamento e altri servizi come portafogli digitali e pagamenti peer-to-peer. Rimanendo nel mondo bancario, il colosso finanziario Société Générale francese ha acquisito la startup Shine, sempre francese, per circa 100 milioni di euro, anche se questa cifra non è stata confermata. Shine è una banca digitale creata da alcune persone esperte del settore, dedicata ai professionisti, alle piccole aziende, che oltre ad offrire servizi finanziari ti automatizza una serie di operazioni amministrative, tipo ti puoi fare la fattura direttamente dall'applicazione. La californiana Blue Dot, una startup specializzata in sistemi di geolocalizzazione, ha annunciato di aver raccolto 9,1 milioni di dollari, che portano ad oltre 20 i milioni raccolti. Allora, che cosa fa Blue Dot? Fornisce vari tipi di tecnologie, come quelle per pagare l'autostrada tramite geolocalizzazione, altro che telepass, quando appunto passi dalla barriera dell'autostrada, oppure quella che permette al negoziante di sapere se un cliente che ha ordinato un prodotto online con ritiro in negozio si sta avvicinando. Quindi, ad esempio, che cosa succede se un cliente utilizza l'app di quel negozio, di quel servizio? Il negoziante riceve una notifica quando sei arrivato o vede che ti stai avvicinando, quindi esce e ti consegna la merce. Quindi nessuna fila, nessuna attesa, in maniera molto, molto rapida e veloce. È un'applicazione, direi, anche molto semplice. In Italia c'è qualcuno che ci sta pensando, però non mi pare che ci sia nulla di operativo del genere. In tutto il mondo si moltiplicano le iniziative per rendere operativi vari tipi di robot, per fare in modo che le persone rimangano distanti. Allora, molti sono robot con le ruote, quindi rover automatici, piccoli carrelli a guida autonoma per fare consegne di prodotti, oppure, come hanno fatto all'aeroporto di Tokyo Haneda, sedie a rotelle a guida autonoma. Le prime tre prodotte da una startup giapponese che si chiama Will e che ha finora raccolto 100 milioni di dollari di finanziamenti sono operative da pochi giorni, portano i passeggeri a ridotta mobilità, chi ha bisogno della sedia a rotelle, dall'area controlli all'imbarco. A proposito di guida autonoma, la startup americana TuSimple e il gigante delle consegne UPS hanno annunciato che entro un anno lanceranno un servizio di trasporto merci a guida autonoma. Attualmente TuSimple opera con i propri camion a guida autonoma su 7 tratte, ma con autista e un ingegnere a bordo per supervisionare il sistema. Questo non so per motivi tecnologici, ma proprio per legge negli Stati Uniti è obbligatorio avere, ma in tutto il mondo direi, è obbligatorio avere piloti a bordo durante queste sperimentazioni. Infine vi segnaliamo una soluzione da poco approvata dal governo giapponese che si chiama Cure App Smoking Cessation, una digital therapeutics che aiuta a smettere di fumare, tutto in app. Come alcuni dei nostri ascoltatori ricorderanno, abbiamo parlato recentemente di digital therapeutics, quindi di applicazioni vere e proprie che hanno una valenza medica e quindi sono approvate dal Servizio Sanitario Nazionale e possono essere prescritte dal medico. Questa è l'ultima, non ce ne sono tantissime al mondo, questa è l'ultima che è stata approvata in Giappone. Cure App è una startup, questa si chiama in modo particolare Smoking Cessation, quindi che ha la particolarità di aiutarti a smettere di fumare. Mentre Spotify lancia anche in Italia un nuovo abbonamento che si chiama Duo, una sorta di abbonamento family meno costoso destinato alle coppie conviventi. Quindi qua c'è poco di tecnologico, molto di commerciale, comunque insomma è una novità che arriva per il nostro paese. Invece in 26 paesi del mondo, per ora l'Italia è esclusa da questi paesi, il più importante servizio di streaming musicale al mondo ha lanciato un servizio che ti permette di visualizzare in tempo reale i testi delle canzoni con la tecnologia fornita dall'italiana Music's Match. Max Ciocciola è il fondatore di Music's Match, bentornato a 2024, Max. Ciao Enrico, ciao a tutti. Ormai sono 10 anni che tu hai fondato questa che una volta era una startup, oggi è un'azienda. Music's Match si basa sui testi delle canzoni, che sono una delle cose più ricercate, forse dopo la musica in sé in internet. Diciamo due parole sui testi delle canzoni. Ma direi, guarda, anche più della musica in sé, perché l'intuizione 10 anni fa ci venne perché vedemmo che lyrics, che vuol dire testi in inglese, era la parola in assoluto più cercata su Google in tutto il mondo e da sempre. In effetti, l'esperienza passata, prima di Spotify, prima che tutti questi servizi usassero la nostra tecnologia, era tipicamente che la gente andava su Google a cercarli e Google pullulava di questi siti internet, nella maggior parte dei casi illegali, che fornivano testi. E c'era un audience, fai conto, di circa 2 miliardi di persone che ogni mese leggeva. Quindi un'esperienza incredibile. Ora, se tu consideri oggi non abbiamo abbiamo sicuramente ogni singolo essere vivente appassionato di musica, ma abbiamo 500 milioni di utenti abbonati tra free e premium nel mondo della musica digitale. Quindi l'audience, diciamo, questo contenuto ha da sempre appassionato chiunque, basterebbe chiederlo, conosci il testo, lo cerchi, eccetera, più della musica, mi viene da dire, e più dell'abbonamento di per sé. È chiaro che poi l'unione o il pacchettizzare questo testo, che una volta io e te, magari i tuoi ascoltatori sono più giovani di noi, non lo leggeva dai CD. Ti ricorderai l'esperienza di quando uno comprava il CD o il vinile, che c'era questo profumo di carta appena stampata, questo booklet dove tu leggevi i testi. Nell'esperienza digitale questa esperienza, questa azione è cambiata. Però c'era un baco, se vuoi, che tu dovevi ascoltare la musica su Spotify, per esempio, e poi dovevi andare su Google a cercare il testo. Music's Match ha risolto questo problema offrendo il testo sincronizzato a tempo con la musica. Ed è diventato quindi Spotify, ma lo è anche Apple Music, Amazon Music, ora parte dell'esperienza del playing. Io premo play, la musica parte, ho la copertina, ma ho anche le lyrics a tempo. Senti, dal punto di vista tecnologico, perché uno potrebbe pensare, ma Music's Match ha creato un grandissimo database di testi di canzoni. Certo, c'è il database, l'archivio di questi testi, ma c'è anche una componente tecnologica e in questo caso, ma poi anche in altri casi, voi vi interfacciate con tecnologia di altri, Spotify e anche altri provider di musica. Ecco, che cosa c'è di tecnologico? Guarda, il testo viene sincronizzato esattamente come un film, una serie su Netflix, viene sincronizzata con dei sottotitoli. Nel caso di un film, Netflix arruola delle persone che scrivono i sottotitoli, in quel caso è molto più lungo il processo perché parliamo di film di durata di 2 ore. Nel caso della musica, in particolare del testo sincronizzato, Music's Match arruola ben 70 milioni di persone che sono i nostri utenti dell'app di Music's Match, i quali, appassionati di farlo e di condividerlo, non fanno altro che avere un piccolo quasi giochino sul telefono che permette loro di sincronizzare il testo a tempo con la musica. Questa è la prima azione, diciamo, che viene fatta, quindi un'azione umana, ed è un modello quindi crowdsourcing, dove l'utente effettua. Nel tempo l'intelligenza artificiale ci ha aiutato, tu sai meglio di me che l'intelligenza artificiale in realtà ha bisogno di un training, ha bisogno di un allenamento della macchina per poter poi svolgere un processo in maniera autonoma, quindi noi abbiamo allenato le macchine a capire come sincronizzare un testo e oggi la macchina lo sincronizza da solo a tempo. Come fa? L'audio è fatto di per sé una canzone da una parte strumentale e da una parte vocale. La macchina separa questi due pezzi, la parte strumentale e la parte vocale, e dalla parte vocale riceve una lyrics, il testo in pasto, quindi non lo trascrive direttamente, lo sincronizza in maniera automatica. Questo è il processo tecnologico che c'è dietro. Quindi c'è un lavoro umano importante, ma c'è la macchina che, grazie all'umano, e se vuoi questo è il riassunto del grande dibattito sull'intelligenza artificiale, il ruolo dell'umano è fondamentale per il per il training. Quindi questo è il core, la piattaforma di Music Match per la parte di sincronizzazione. Ovviamente questo ci permette di poter fare N analisi perché noi siamo in grado di sapere per ogni secondo il timestamp, come si dice in gergo, quello che viene, cioè le parole per ogni pezzo della canzone e le riusciamo ad abbinare allo strumento, alla canzone, quindi riusciamo a fare tante analisi. Ti faccio un esempio che pochi conoscono perché è pubblicizzato poco, però tu puoi chiedere a Siri: "Ehi Siri, mi fai ascoltare quella canzone che dice questo?" Siri te la fa ascoltare. Quindi c'è tutto un valore dietro, cioè la canzone in realtà noi la paragoniamo molto all'essere umano, c'è un'anatomia dietro la canzone che è incredibile, ci sono un'innumerevole serie di dati e il tema e del ruolo di Music Match è quello di estrarli, c'è una struttura di metadati, ci sono gli strumenti, c'è l'audio, c'è la bitrate, ci sono le parole, c'è una sentiment analysis dietro, tu sei in grado di capire se la canzone è felice o triste, ok? E quindi noi non facciamo altro che estrapolare tutte queste informazioni, combinare l'audio con il testo per creare questa esperienza che è effettivamente noi definiamo, l'abbiamo definita la UI, l'interfaccia della musica, perché poi sai, la musica è sempre stata ascoltata. Noi mettiamo le nostre cuffiette, andiamo a correre, in macchina l'ascoltiamo, non la tocchi, non c'è un touch. Nel caso delle lyrics tu la guardi, la vedi su un grande schermo, su un piccolo, la segui, capito? Quindi è un'interfaccia molto importante. Allora, intanto mi hai detto una cosa che non sapevo, cioè quella di poter chiedere a Siri di farmi ascoltare una canzone che parla di un determinato argomento. Proverò, proverò. E tra l'altro mi hai detto anche una cosa interessante perché un tempo si chiamava la radio locale e si diceva vorrei ascoltare la canzone che dice questo e questo, e magari la si canticchiava anche. E adesso lo si può fare con lo smartphone, con le macchine, col software. E, ecco, a tal proposito, tu pensi che le analisi che voi fate, ma che poi anche Spotify, Apple Music, tutti fanno di questi metadati che tu ci hai ricordato, possano effettivamente in poco tempo migliorare i sistemi di intelligenza artificiale che ci suggeriscono la musica? Perché per il momento non mi sembrano sempre, sempre intelligentissimi, cioè a volte ti suggeriscono cose che non ti piacciono. Ecco, qual è l'evoluzione di questo? Allora, la risposta è sì, ed è quello su cui noi stiamo lavorando tantissimo. Il cosiddetto mondo delle music recommendation, che io paragono spesso a quello legato al mondo del vino, e tu riderai su questo. La verità è che la musica è un po' come i vini, nel senso che finisci per assaggiare un vino buono in un ristorante e volerne comprare una bottiglia. La musica, ascolti un pezzo in radio, o magari qualche amico ti dice l'ha ascoltato, è bellissimo, e finisci per volerlo riascoltare. Quindi il discovery di per sé è molto complicato come azione, un po' come quando Netflix ti suggerisce qualcosa, non è che ci azzecchi sempre. Nel caso della musica, fino ad oggi i sistemi e gli engine di recommendation, di raccomandazioni, cioè caro Enrico, hai ascoltato questo, ti faccio, forse potrebbe piacerti anche questo, sono da sempre stati basati sull'audio. Ovvero cercare canzoni che siano simili, si parla di similarity, sulla parte audio. Okay? Questo però ha sempre prodotto un grandissimo bug, nel senso che se tu eri un appassionato di Ligabue, e che è un certo genere e ha una certa bitrate, una certa melodia, rischiava di raccomandarti qualunque di questi servizi un Tiziano Ferro solo perché magari c'era una schitarrata tipica alla Ligabue. Perché il sistema ragionava in maniera simile, giudicando simili quei due pezzi, e quello avrebbe generato un disappunto perché evidentemente sono due artisti diversi. L'approccio che Music Match può fornire è, tanto per cominciare, un approccio semantico, cioè noi siamo in grado di produrre un dato e di dire guarda che Ligabue, per tutto quello che ha scritto, per come l'ho scritto e per quello di cui parla, è distante anni luce da Tiziano Ferro. E questo già è un piccolo segnale per poter dire agli engine di raccomandazione audio questi due pezzi non vanno bene. La seconda è che noi abbiamo prodotto una sentiment analysis, cioè abbiamo tirato fuori la parte interessante, testuale di ogni canzone e pezzo per, cioè, quindi per ogni istante della canzone, perché tu hai una canzone che comincia in maniera happy, poi può essere energetic e poi cambia, e quindi tiriamo fuori un ulteriore dato. Quindi per rispondere alla tua domanda, noi riteniamo che il nostro approccio, unito a quello audio, perché per forza ha bisogno di quello, possa in realtà creare un meccanismo di recommendation molto più utile. Perché poi, diciamocela tutta, se a me piacciono i One Republic, perché mi piace quel tipo di musica, poi in realtà, se tu vai a leggere i testi di One Republic, c'è un filo conduttore, è un po' come un giornalista come te che finisce per scrivere di tecnologia e magari simpatizza per una tecnologia piuttosto che un'altra. Cioè, il giornalista ha il suo parere ed è per questo che ci piace, non deve essere necessariamente oggettivo, esprime il suo parere. Il songwriter o chi scrive una canzone ha il suo stile, per cui parla di determinati argomenti, difficilmente li cambia. Su questo abbiamo fatto uno studio noi di correlation che ti dimostra che quello che ha scritto i testi per Madonna e per tanti altri usa comunque un filo conduttore di linguaggio, di semantica, di espressione e di argomenti. Okay? Quindi c'è un lavoro enorme dietro le parole che si può fare e questo noi lo stiamo tirando sempre più fuori e lavorando con tutti questi signori stiamo cominciando a offrire loro dei dati in grado di potergli migliorare la parte di recommendation. Oltre a Spotify, con chi avete accordi? Con tutti. Spotify ha completato la market share. Apple Music utilizza Music Match, Shazam utilizza Music Match, Amazon Music utilizza Music Match, Google, oggi se cerchi addirittura i testi direttamente su Google, te li offre direttamente Google e lo fa con Music Match. Vivo, il colosso dei video musicali. Instagram, che è uno dei più belli esempi atipici, non fa musica, però Instagram è riuscita attraverso un accordo con noi, sostanzialmente nelle stories di Instagram puoi aggiungere la musica, dei piccoli pezzi di musica da 20 secondi e automaticamente ti mostra la lyric sincronizzata a tempo e lì si crea un'esperienza, se vuoi, lì viene fuori proprio tutto il valore del testo, perché immaginati io sulle Dolomiti in montagna che vado in bici, ti tiro fuori Viva la libertà di Jovanotti, lo snippet, con il testo. Ti crei il contesto, quindi la lyrics diventa contestuale all'immagine o alla stories che tu stai facendo. Ci piace citarlo come uno degli esempi più belli, perché non è un servizio di streaming Instagram, però l'immagine correlata con un testo, con un font particolare, ti crea un mini video, una mini esperienza. Quindi abbiamo praticamente tutti questi clienti. Spotify era quello che mancava all'appello, da tempo, e ci stiamo. Non mi piace definirci come gli unici sul mercato, perché ci sono delle alternative, ma come i migliori sicuramente, perché poi sai, questi soggetti hanno un'attenzione incredibile alla qualità del contenuto, e quindi voglio dire, se ci scelgono c'è un motivo. Esattamente. Ti faccio un'ultima domanda su le persone che nel corso di questi 10 anni hanno contribuito alla crescita di Music Match, anche dal punto di vista tecnologico, perché l'aspetto tecnologico è importante. Le avete sempre trovate A, facilmente, B, in Italia? Guarda, Music Match è un caso molto strano, perché noi all'inizio, col desiderio di voler non apparire italiani ma subito internazionali, è stato quasi un boomerang, perché poi alla fine è venuto fuori che moltissimi non sapevano che fossimo italiani, quando in realtà la nostra sede è sotto le due torri a Bologna. Quindi in realtà in moltissimi casi facevamo difficoltà ad assumere delle persone semplicemente perché queste non sapevano, in Italia, dico, perché non sapevano fossimo italiane. E lì abbiamo cominciato a raccontare che Music Match è made in Italy but enjoyed everywhere, è una multinazionale presente, e quindi devo dirti che la forza di Music Match, lo dico sempre ai talenti, abbiamo quasi 100 ingegneri adesso, abbiamo trovato delle risorse ad altissimo livello. Io penso che gli ingegneri italiani, i data scientist italiani, sono tra i migliori al mondo, senza alcun dubbio. Abbiamo le università italiane, sono capaci di sfornare dei talenti a livelli mostruosi. E questo ci viene riconosciuto, sai, lavorando con tutta la Silicon Valley, con queste aziende, ci viene assolutamente riconosciuto, e quindi siamo sempre stati in grado e siamo stati fortunati di trovarle. Delle volte non è facilissimo. Un caso tra tutti, Marco Paglia, che è il nostro Chief Product Officer, un italiano che lavorava in YouTube e Google a San Francisco, corteggiato per 10 anni, Marco Paglia è ritornato in Italia e fa il nostro Chief Product Officer lasciando Google e YouTube. Quindi hai anche casi di chi, e quando tu chiedi a uno come lui, dice: ma tu come, dice: guarda, io e l'unica ragione per cui sono ritornato, oltre al piacere, è perché volevo un'azienda come Music Smash. Quindi il messaggio è che si possono creare delle storie assolutamente paragonabili. Poi sai, dopo tutto questo periodo post-Covid, lasciami dire che il tema location dell'ufficio conterà sempre meno. Qui si cominciano già a parlare di alcune startup dove gli chiedi dove siete, questi ti dice no, non abbiamo un ufficio. We're working from home, cioè si parla di remote HQ, capito? Questo si diffonderà sempre più e verrà sempre meno comunque il concetto di dove sei basato determina. 10 anni fa mi dicevano, ah, ma qui in Italia tu non avrai chance perché devi essere basato lì. Non è così e sarà sempre meno così. Grazie a Max Ciociola per essere stato con noi. Buon lavoro, a presto. Grazie a voi, a presto. Tra poco con Paolo Dal Checco, uno dei nostri esperti di cyber security, parleremo di salvataggio di dati personali del nostro smartphone in alcune situazioni particolari che possono capitare abbastanza frequentemente. Adesso parliamo invece di un servizio da poco lanciato da TIM in collaborazione con Google. TIM è il primo operatore europeo, uno dei pochi al mondo ad aver introdotto questo servizio, si chiama Voce Smart. Mi sono fatto raccontare come funziona da Quang Ngo Din, che è il responsabile del mercato consumer di TIM. Il servizio allora è molto semplice, è sufficiente avere un apparato Google Nest, che sono il Google Mini o il Google Hub, sono quelli che sono cosiddetti smart speaker, e una SIM TIM consumer e ovviamente una rete fissa di TIM, quindi una fibra o una qualsiasi rete fissa. Quindi una volta attivato il servizio con gli apparati Nest di Google è sufficiente chiamare l'assistente con il classico Hey Google o Ok Google e dire poi chiama un numero presente per esempio nella rubrica del proprio smartphone oppure chiama un esercizio commerciale, una pizzeria, un negozio che voglio chiamare per magari prenotare qualcosa e il servizio farà partire direttamente una chiamata al destinatario, quindi pescandolo dalla rubrica oppure dalla infinita rubrica di Google e farà partire una chiamata che quindi verrà originata attraverso il device, quindi il Google Mini o il Google Hub, e poi viene però terminata, ed è questa l'integrazione particolare, come una normale chiamata da numero mobile, quindi il chiamato vedrà una chiamata dal numero mobile del cliente. E quindi a tutti gli effetti è un'integrazione tra il mondo di Google, dello smart speaker, e la rete di TIM. Fuori casa non funziona ovviamente perché deve utilizzare il wifi di casa. Sì, perché lo smart speaker è un oggetto fisico che tipicamente viene messo in casa, quindi in salotto, in cucina, o anche un cliente può averne più di uno, e quindi sì, funziona in casa in copertura Wi-Fi. Tra l'altro questo risolve anche alcuni problemi magari di copertura indoor che qualche cliente potrebbe avere, perché originando la chiamata in ambiente Wi-Fi, anche se in casa ci fosse una copertura scarsa, magari per muri spessi o situazioni particolari, la chiamata sarebbe assolutamente nitida e chiara perché passa attraverso il Wi-Fi e poi viene consegnata tramite la rete TIM mobile. Quindi di fatto si utilizza la rete fissa, cioè la rete internet di casa, e poi siete voi che la instradate dove meglio ritenete, insomma, tecnologicamente parlando. Tecnicamente passa attraverso la rete fissa e poi viene consegnata attraverso la rete mobile di TIM. Quindi il vantaggio è che il cliente può parlare in viva voce senza usare lo smartphone, senza usare il telefono di rete fissa, e dall'altra parte il ricevente vede solo una chiamata originata da me, come se lo avessi chiamato dal mio smartphone, quindi non vede alcuna differenza. Questo può andare bene per tutti i clienti un po' più smart che hanno cominciato a utilizzare questi servizi di Google, però quello che poi piace sempre ricordare è che questo va benissimo anche per clienti magari un po' più in difficoltà, pensiamo magari a degli anziani che hanno un po' più di difficoltà a usare lo smartphone con una chiamata vocale, quindi Hey Google, chiama Giovanna, la chiamata parte in automatico e in viva voce alla persona magari in difficoltà nell'usare lo smartphone può chiamare in maniera di fatto anche molto più semplice, perché i comandi vocali sono la cosa più semplice che ci sia, molto più semplice che usare uno smartphone per molte persone. Questo servizio, che tra l'altro è stato attivato da pochissimi operatori nel mondo, siete il terzo o quarto operatore, giusto? Allora, siamo i primi in Europa ad avere un'integrazione con i dispositivi Google, di fatto il primo al mondo nel farlo con la rete mobile, quindi nel presentarsi con il numero mobile. Quindi sì, siamo assolutamente tra i primi e in particolare a farlo con Google. Ecco, questo servizio in che trend si inserisce? Perché di fatto, appunto, è un piccolo tassello di qualcosa di un po' più ampio, giusto? Giustissimo, questo è il primo passo intanto di integrazione di servizi che stiamo facendo con Google, che è un nostro partner di primissimo piano. Su tanti altri ambiti avete probabilmente già letto o sentito notizie riguardo la nostra strategia sul cloud nel mondo business e in generale questo è un tassello, diciamo, di un percorso molto ampio che stiamo facendo con Google. E quindi Google come partner sicuramente ci darà tante soddisfazioni nei servizi che potremo fare insieme. E più in generale questo si introduce in una strategia di convergenza che team ha nel mondo del consumer, e cioè quello di mettere insieme tanti servizi per semplificare la vita ai nostri clienti. Quindi il fisso con la fibra, il mobile con il 4G e il 5G, i contenuti con tutto il mondo dei contenuti del calcio, di Netflix, di Disney e tutto il mondo di Team Vision che offriamo ai nostri clienti per l'intrattenimento, e appunto questo quarto tassello che è la smart home, e quindi rendere la casa più confortevole e più smart grazie ai servizi che integreremo oggi con Google e poi anche con altri player di primo livello, ovviamente. Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, in onda il venerdì tra le 22 e le 23, domenica alle 13:10 in replica. Trovate tutta la nostra puntata in edizione integrale nella versione super podcast online sul nostro sito internet, attraverso la nostra applicazione, attraverso l'applicazione delle radio italiane, ovvero Radio Player Italia, oppure le principali piattaforme di audio in streaming on demand, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e tutte le altre che trovate negli App Store. Io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungermi attraverso Facebook, Twitter, LinkedIn oppure a 2024@radio24.it. Paolo Dalcheco, esperto di cyber security, esperto di informatica forense e indagini digitali, bentornato a 2024. Grazie Enrico. Un nostro ascoltatore mi ha scritto qualche giorno fa dicendo: ma se porto il telefono, lo smartphone in assistenza, come mi devo comportare? E allargando il tema, come ci dobbiamo comportare quando dobbiamo lasciare il telefono nelle mani di una persona che potrebbe essere quella che ci sistema il telefono, oppure un amico, un parente, perché magari ne ha bisogno, è rimasto senza il suo telefono, oppure lo vogliamo vendere, lo vogliamo regalare. Sappiamo benissimo che nel nostro smartphone c'è la nostra vita, i nostri dati personali, le fotografie, le credenziali d'accesso. Allora, a cosa dobbiamo stare attenti, Paolo? Confermo che il tema e la problematica è molto sentita e mi viene sottoposta quasi tutti i giorni dai clienti o amici. Le casistiche sono quelle che hai elencato: devo vendere lo smartphone, lo devo regalare, quindi c'è chi lo regala anche banalmente ai figli o ad amici, oppure lo devo portare in assistenza sapendo che qualcuno potrà avere accesso a questi dati. I centri assistenza in genere, a volte secondo me erroneamente, chiedono le password degli utenti, cosa che secondo me, se non è estremamente necessario, sarebbe meglio non fare. L'utente ingenuamente la fornisce e chiaramente il centro assistenza, nel momento in cui accederà al smartphone, avrà accesso a tutti i contenuti, comprese fotografie, messaggi, WhatsApp. Tra l'altro è abbastanza fastidioso sapere che qualcuno ha accesso a un oggetto così intimo come può essere il cellulare. I consigli che si possono dare in questo caso sono diversi. Il primo è: se possibile, non fornite la password. Insistete e cercate di capire se veramente hanno bisogno della password. Se il problema è il display da cambiare, lo schermo che magari si è rotto, non funziona più bene, la password non serve. Loro possono sostituire lo schermo del cellulare con uno nuovo, accenderlo e vedere se si vede bene. Non serve accedere all'interno del dispositivo e quindi ai dati. Se invece è un problema di tipo diverso, potrebbe essere necessario effettivamente fornire la password. In questo caso il consiglio che io do è quello di consegnare il dispositivo solo dopo averlo resettato e quindi averne cancellato i contenuti. Le questioni che nascono a questo punto sono due. Primo, come faccio a resettare il dispositivo in modo da essere sicuro che chi lo riceve non possa recuperare i miei dati? Sappiamo oramai tutti che in alcuni casi è possibile recuperare i dati cancellati anche dagli smartphone. Il secondo problema è come faccio quando mi tornerà indietro il telefono ad averlo esattamente come prima? Io, se mando il telefono una settimana, ma anche solo 2 o 3 giorni a un centro assistenza per sostituire lo schermo, vorrei poi al ritorno, quando il telefono mi viene restituito, poterlo utilizzare come facevo prima, avere le mie fotografie, avere le chat WhatsApp, avere i messaggi di testo, tutto quello che c'era prima. A questo punto la soluzione per il ripristino è il backup, cioè farsi una copia dei dati in modo tale da poter poi resettare il telefono e nel momento in cui il telefono ci verrà restituito ripristinare la copia dei dati che abbiamo fatto sullo stesso telefono. Questo tra l'altro è anche un altro vantaggio, che se dovessimo perdere il telefono, se dovesse rompere, noi questa copia che ci teniamo da parte potremmo anche riutilizzarla per recuperare i nostri dati. Quindi è una cosa che male non fa avere i nostri dati da parte al sicuro da qualche parte. Esatto, si dice spesso che il backup è fondamentale nella vita di tutti i giorni, poi ci arriviamo perché torniamo sul tema, a maggior ragione in questo caso in cui ci dobbiamo allontanare dal telefono per qualche giorno o addirittura a volte qualche settimana. Ovviamente noi sappiamo che i migliori centri di assistenza garantiscono sicurezza, sono persone serie, però tra i tantissimi centri di sicurezza non si sa mai, quindi comunque queste sono delle buone pratiche a prescindere. E la domanda che ti faccio è, oltre a come fare per fare un salvataggio dei dati in modo da ripristinarli facilmente, ecco, ma questa operazione è un'operazione complicata o oramai alla portata di molti? Perché la necessità di dover portare il telefono in assistenza, oppure ad esempio come nell'esempio che tu hai fatto, venderlo, regalarlo ad amici, è una cosa, come dire, molto, molto frequente. La necessità di fare, cioè la possibilità di fare backup è facile? Alla portata di tutti? È molto facile e si può fare anche senza avere un computer. Abbiamo due categorie. La prima categoria è chi ha un computer e allora banalmente può collegare con il cavetto che viene fornito in dotazione il cellulare al computer, avviare il programma che in genere viene fornito insieme al cellulare, o se non viene fornito basta scaricare da internet. Per esempio, se avete un Huawei, cercate la suite Huawei, in genere si chiamano PC suite, le suite di software legate al computer. Se avete uno Xiaomi, anche in quel caso c'è la versione desktop, la versione per computer che permette di fare il backup. Se avete un Samsung, in quel caso si chiama Smart Switch, è un programmino che si scarica sul computer e una volta connesso con il telefono, il computer si scarica in locale tutto quello che c'è sul telefono. Quindi se si ha a disposizione un computer è comodissimo installarli sopra il programmino che viene fornito dal produttore del telefono, connettere il telefono e avviare l'operazione di backup. È abbastanza veloce, mezz'oretta, un'oretta, avrete tutto il contenuto del telefono copiato sul computer, con una possibilità molto interessante che è quella di fare anche l'inverso, cioè quando tornerà al telefono applicare l'impostazione di ripristino e quindi dal computer i dati torneranno sul telefono e non ci si accorgerà della differenza, nel senso che guardando il telefono sembrerà esattamente così come lo avevamo lasciato. Se non si ha a disposizione il computer, un'opzione molto interessante è quella del cloud. Tutti i produttori di telefoni oramai forniscono anche una loro versione di backup su cloud. Aveva iniziato Apple, che è con il suo iCloud già anni che fornisce questa soluzione di copia del telefono sul cloud, che in realtà si chiama iCloud per la versione Apple, ma adesso anche pian piano tutti gli altri produttori stanno facendo la loro versione, per cui Samsung, Xiaomi, Huawei e così via hanno tutti la loro opzione di backup sul cloud. Quella è la comodità, che non c'è bisogno di avere il computer. Bisogna ovviamente avere una linea internet un minimo veloce o una quantità di dati sul proprio operatore telefonico che non venga esaurita da questo backup. Se io ho 50 GB di fotografie, chiaramente se ho un contratto che mi permette di navigare per 50 GB, io li consumo tutti in un attimo solo. ma tipicamente è una cosa che si fa quando ci si connette al wifi di casa o di ufficio. A questo punto, prima di consegnare il telefono, accendiamo lo smartphone, andiamo nelle impostazioni, cerchiamo l'opzione, il comando di backup, ora per ogni modello e per ogni marca è in un punto diverso, impostiamo il backup sul cloud, lo avviamo, se non ci siamo mai registrati dovremmo registrarci al servizio legato alla marca del telefono che abbiamo acquistato, quindi se abbiamo uno Xiaomi dobbiamo registrarci sul cloud Xiaomi, se abbiamo un Huawei su Huawei e così via, su iCloud saremo già registrati perché avremo sicuramente impostato un utente iCloud sul nostro telefono e il telefono comincia a fare il backup. Ci mette un po' di tempo, ma a un certo punto tutto quello che c'è sul nostro telefono sarà anche in questa area, nell'iperuranio, nell'eterea, dove noi non sappiamo esattamente dove sono i nostri dati, come sono memorizzati, ma da qualche parte ci sono. Ovviamente dovrebbero essere legati al nostro account, anzi è così, quindi gli altri non possono vederli, ma noi quando avremo indietro il nostro telefono, ricollegando il telefono, quindi reimpostandoci sopra il nostro account, avremo la possibilità di ripristinare i dati dal cloud. Siamo sicuri che quando facciamo il backup, e quindi una volta fatto il backup, facciamo l'operazione di ripristino diciamo del telefono così come è uscito dalla fabbrica, dalle impostazioni di fabbrica, e quindi cancelliamo tutti i dati perché li abbiamo già salvati in backup e possiamo consegnare o vendere il telefono, prestare il telefono. Siamo sicuri che i dati vengono tutti cancellati? E allora, domanda corretta. Se noi facciamo il backup in locale, quindi sul computer, i dati possiamo vederli lì, ce li abbiamo fisicamente, spesso questi backup li possiamo anche vedere, per cui guardiamo che ci siano le foto, guardiamo che ci siano i messaggi e così via. Se facciamo il backup sul cloud, tendenzialmente dobbiamo fidarci, quindi dobbiamo per esempio verificare quant'è grande quant'è la dimensione di questo backup, perché se abbiamo tante fotografie, chat, messaggi e così via e il backup è di 10 megabyte, probabilmente qualcosa non ha funzionato. Non sempre riusciamo a vedere esattamente cosa c'è sul cloud. Ci vogliono a volte degli strumenti un minimo più complicati di questi software che si usano sul computer per verificare quello che il nostro telefono ha caricato sul cloud. Per cui effettivamente questo è un punto che andrebbe approfondito. Si dovrebbe magari fare una prova su un altro telefono, tipo io faccio il backup sul cloud di Huawei e provo a scaricarlo su un altro telefono, se proprio voglio essere sicuro al 100% che ci siano tutti i dati. Oppure adottiamo la soluzione locale, e cioè facciamo il backup su computer, o magari anche entrambe. Io ne faccio una su computer e anche una sul cloud, in modo da avere il doppio della probabilità che tutto sia andato bene. Ok, e siamo sicuri che quando facciamo l'operazione di cancellazione di tutti i dati sul telefono, quei dati vengano effettivamente cancellati? Questa è un'altra problematica non indifferente. In passato i dati potevano quasi sempre essere recuperati a seguito di un reset o di una cancellazione. Dico in passato perché in passato la cifratura sui dispositivi mobili, quindi sui cellulari, sui smartphone, non era così frequente. In alcuni casi si poteva attivare a scelta, ma tendenzialmente non esisteva. Se un dato non è cifrato, quindi non è criptato, quando viene cancellato è possibile ritrovarlo con strumenti di informatica forense, ma anche a volte con strumenti meno professionali, ricostruirlo e tirarlo fuori dall'area in cui si trova ancora memorizzato, che è ciò che spesso con i computer si può fare. Se io cancello un file, poi posso recuperarlo, molto spesso, non sempre, perché è ancora lì. Semplicemente ho perso le indicazioni su dove si trova, ma il file è ancora lì. Ha cominciato poi da alcuni anni invece a consolidarsi l'utilizzo della cifratura sui telefoni. Ha iniziato Apple, che in automatico, senza dirvi nulla, sta cifrando i dati che voi vi memorizzate sul telefono. Ci è arrivato anche Android, che dalla versione 8 ha cominciato a lasciare agli utenti la scelta se cifrare o meno. Dalla versione 9 di Android l'utente non può più scegliere, lui cifra i dati, non quelli sui dispositivi esterni, sulle schedine esterne. Questa è una cosa che spesso va precisata. Se voi salvate le fotografie e i filmati, anche privati, sulle schedine esterne dei telefoni, quindi sulle micro SD e così via, magari per avere un po' più di spazio, quelli non vengono cifrati in automatico. Quindi, tra l'altro, se si perde il telefono, quei dati chiunque li può vedere. Viene cifrato ciò che invece è all'interno del telefono, quindi tutto ciò che è contenuto all'interno della memoria che viene venduta insieme al telefono. Cosa vuol dire che i dati sono cifrati? Che se noi resettiamo il telefono e quindi cancelliamo la password, in sostanza, con la quale questi dati sono stati cifrati, chi dovesse ritrovare il telefono non sarà in grado di recuperare i dati perché i dati saranno spersi all'interno della memoria del telefono e decodificati in modo tale da non poter più essere ricostruiti. Quindi in sostanza la cifratura ci aiuta sia nel caso in cui perdiamo il telefono e ci permette di fare in modo che chi lo trova non sia in grado di forzarlo e di entrarci dentro, o sia in grado con estrema difficoltà, ci sono dei casi in cui si riesce comunque a fare, ma soprattutto quando resetteremo il telefono, chi lo avrà in mano, quindi l'assistenza ad esempio, se anche dovesse provare strumenti di informatica forense per fare un'acquisizione che viene chiamata physical, un'acquisizione nella quale l'intero contenuto del dispositivo viene riversato su uno dei loro sistemi, sui quali poi fanno partire degli strumenti di si chiama carving questa funzionalità, cioè si scava all'interno della copia che è stata fatta sul computer finché non si trovano le immagini, le chat, i filmati e tutto quanto. Se la copia viene fatta di una scheda del telefono che è cifrata, questa operazione di carving fallisce, non si trova nulla. Quindi se anche un centro assistenza volesse provarci e vedere un po' che cosa c'era in passato sul nostro dispositivo, non ci riuscirebbe. Questo è tutto grazie alla cifratura, per cui un reset completo fatto di un dispositivo adesso nel 2020 tendenzialmente non permette il recupero dei dati che c'erano memorizzati prima. Questa è una cosa che dovrebbe tranquillizzare un po' tutti. Certo, e immagino che crei problemi invece a professionisti come te che devono invece in alcune situazioni andare a recuperare dati, ma che è impossibile recuperare. Altro che, non hai idea di quante volte in passato i criminali resettavano i telefoni ed erano convinti di averla fatta franca e si poteva ricostruire tutto quello che c'era dentro. Adesso basta un semplicissimo reset, in particolare degli iPhone, che sono terribili da questo punto di vista, e noi non recuperiamo più niente o pochissimo, a volte qualcosettina riusciamo a recuperare, ma cose totalmente inutili. Quindi un reset di un telefono riesce a creare problemi agli informatici forensi, quindi a maggior ragione lo farà anche a chi nei centri assistenza dovesse volerci provare e tentare di recuperare i dati presenti su un telefono che hanno in assistenza per qualche giorno. Senti, ti faccio una domanda di vita quotidiana del backup, perché il backup, che è una cosa che si dovrebbe, come dire, una buona pratica che si dovrebbe seguire soprattutto in ambito professionale nelle aziende, dovrebbe però essere una pratica che ormai dovrebbe essere seguita anche da tutti noi, e stiamo dando consigli che valevano anche 10, 20, 30 anni fa. Da quanto tempo si dice devi fare il backup dei dati? Poi si scopre ad un certo punto, quando succede un problema, che magari non l'hai fatto il backup. Dalla tua esperienza, visto che vedi tanti casi, questa sensibilità oggi c'è o siamo a 10, 20 anni fa? Ma questa sensibilità in azienda comincia a esserci, questo sì, grazie anche soprattutto involontariamente ai ransomware, quindi a quei malware che cifrano i dati e chiedono riscatto. In azienda oramai la sensibilità comincia a essere marcata, e proprio per paura di questo tipo di attacchi le aziende tendono a fare dei backup. Il privato invece non ha più la sensibilità di quello che è la storia dei suoi dati. Ad esempio è molto interessante ragionare in termini di fotografie. Noi pensiamo ai nostri genitori, ai nostri nonni persino, che avevano le fotografie nei cassetti, nelle scatole, che poi hanno tramandato ai nipoti, e adesso noi siamo in grado di vedere le foto dei nonni. Se noi chiediamo a qualche nostro amico se ci fa vedere una foto di 3 anni fa, e magari in questi 3 anni lui ha già cambiato 2 volte il telefono, lui non ce l'ha più. Deve andare a cercare nelle vecchie chat che ha scambiato magari con i parenti, con gli amici, sperando di avere ancora la copia della chat, perché se reinstalliamo il telefono a volte perdiamo anche le vecchie chat se non facciamo attenzione. Quindi anche i vecchi messaggi WhatsApp, Telegram, non è detto che siano completamente trasferiti su quello nuovo, se non ci facciamo un po' di attenzione. A volte, avendo anche poco tempo, non ci facciamo attenzione e quindi perdiamo dei dati che magari in passato i nostri nonni ci avrebbero trasferito su delle fotografie cartacee. Noi cerchiamo le foto dei nostri figli e non le troviamo più, se non magari chiedendo ai parenti quando gli abbiamo mandato la foto del bimbo piccolo, e loro magari ce l'hanno ancora perché, essendo di una generazione diversa, magari se la sono salvata da qualche parte, visto che quella foto era importante. Noi abbiamo migliaia di foto e non sappiamo magari dove sono andate a finire. Io nella mia vita quotidiana cerco, magari non ci riesco sempre, di essere ordinato, e ogni tanto metto a raccogliere fotografie, le metto in ordine, faccio backup delle fotografie. Allora, abbiamo capito che sugli smartphone oramai ci sono dei servizi, delle procedure per cui noi possiamo in automatico fare il backup, o in automatico oppure anche manualmente ogni tanto quando lo decidiamo, ma probabilmente è consigliabile fare in automatico il backup di tutto quello che succede nel nostro telefono. Se volessimo allargare la nostra vita al computer, consigli di backup, cioè come fare il backup, e parto da una considerazione molto banale, anche questa molto, molto quotidiana, molto concreta. Meglio scegliere il cloud, servizi cloud, o meglio avere strumenti locali che comandiamo noi, che diciamo che sono sotto il nostro controllo, che ne so, o un disco esterno oppure un NAS, che sembra una parola, come dire, complicata, in realtà poi è sostanzialmente un'unità di archiviazione di dati che possiamo tenere in casa, in ufficio, dove vogliamo. Qui la problematica è sempre quella dell'utente privato e l'utente aziendale. L'utente privato non ha il tempo, la voglia di capire che cos'è un NAS, se deve comprare un NAS con una sola bay o con due, se deve configurarlo in RAID 0, RAID 1, sono tutti termini complicati che nessuno vorrà mai approfondire. L'utente medio non ci pensa e tipicamente non fa il backup. Per questo io direi che forse per l'utente medio l'utilizzo di backup locali diventa complicato, perché bisognerebbe dirgli: tieni un hard disk, collegalo al computer una volta alla settimana, oppure per esempio chi ha il MacBook può usare Time Machine, che è una funzione comodissima di Apple, che senza dirti nulla una volta al giorno o quante volte vuoi tu al giorno fa un backup del contenuto del tuo MacBook. Il problema è dove lo va a fare questo backup. O gli colleghi un disco tutte le volte che arrivi a casa la sera al computer, o lo configuri per farlo appunto su un NAS collegato magari via rete, ma quanta gente si compra un NAS e lo configura in Wi-Fi per poter gestire il collegamento col computer? Per cui direi che per l'utente privato alla fine forse il cloud, per quanto un po' spaventi perché i dati sono da qualche parte, nessuno sa bene dove siano, potrebbe essere la soluzione più comoda, perché configura il cloud anche direttamente sul telefono. Il cloud oramai si basa sulla velocità della connettività, ma tutti abbiamo reti veloci. Io vedo che in città oramai si arriva al gigabit, persino nei paesini arriva la fibra, magari la FTTC, la fibra che arriva fino alla centralina vicino a casa, se non proprio in casa, e comunque quei 70-80 megabit ce li hai. Il cloud si basa su quello: se la linea è veloce non ti accorgi di cosa sta avvenendo sul cloud, e quindi il tuo telefono fa il backup in tempo praticamente reale. E a questo punto abbiamo due questioni: backup finalizzati al ripristino del telefono o backup storici. Cerchiamo di farli entrambi. La prima questione è: se mi si rompe il telefono voglio poterlo ripristinare. Ne abbiamo parlato anche prima, soluzioni offerte dai nostri cellulari ci permettono di fare questo backup che sta su iCloud, su Xiaomi, su Huawei, e se il telefono si rompe ne compriamo un altro uguale, lo configuriamo con lo stesso account e in pochi minuti lui si ricarica, si scarica di nuovo il nostro backup dal cloud. La questione del backup storico la vedo un po' più complicata. L'idea è: non mi interessa poter ripristinare il telefono se mi si rompe, ma voglio avere le foto che ho fatto 10 anni fa, oppure i documenti che ho scritto 10 anni fa. E qui chiaramente la questione diventa un po' più complicata. Bisogna avvalersi delle soluzioni cloud tipo Dropbox, Google Drive, Microsoft anche ha soluzioni simili, oppure anche soluzioni di compromesso. Per esempio Google fornisce un servizio molto carino per le fotografie che permette tramite Google Photo di caricare le fotografie sul proprio account Google in versione leggermente ridotta, quindi la qualità perderà un pochettino rispetto all'originale, ma se sono foto fatte col cellulare la differenza non si nota, in quantità infinita. Per cui io posso avere le foto che ho fatto 10 anni fa perché Google me le ha catalogate in ordine temporale, tra l'altro riconosce anche i volti, i posti, i soggetti, perché io posso cercare una foto di un certo soggetto in un'automobile come se fosse una ricerca che faccio su internet. Quindi mi ricordo di aver fatto la foto ad un amico mentre eravamo in macchina, scrivo il suo nome, ovviamente devo almeno una volta associarlo al suo volto, e Google mi farà vedere in un attimo tutte le foto degli ultimi 10 anni dove con questo amico abbiamo fatto un viaggio in automobile o ci siamo trovati in una certa location. Chiaramente dal punto di vista della privacy può essere un po' fastidioso il fatto che qualcuno, in questo caso Google, abbia tutti questi nostri dati. È sempre il solito compromesso tra comodità e rischio. Chiaramente quello che consiglio di non fare fotografie che se dovessero essere in qualche modo diffuse creerebbero dei problemi, cosa che invece le persone tipicamente fanno. Dovete sempre pensare che il cellulare a un certo punto potrebbe anche diventare pubblico, ovviamente la speranza è che non avvenga mai, ma quando scattate una fotografia, quando fate un video, quando salvate un documento sul cellulare, pensate sempre: se un giorno questo diventasse pubblico mi creerebbe problemi? Se sì, non fatelo. Per cui tutte le fotografie un po' intime o cose simili evitate di farle col cellulare, perché ci sono casi reali dove ho lavorato, tra l'altro, nei quali poi le persone sono state ricattate proprio a causa di questi dati che sono fuoriusciti. Perché come sempre uno pensa, ma figurati se succede a me, poi puntualmente succede. Esatto. Ecco, tu sai che hai sicuramente suscitato le ire di tutti quelli che abitano in zone dove non c'è la FTTC e c'è ancora la vecchia DSL, che quindi dicono: ah, dal Checco dice che c'è la rete dappertutto. Lo so, questo è un problema che effettivamente in Italia in particolare è molto sentito. Sì, esatto, anche se negli ultimi dati che abbiamo commentato anche qualche settimana fa abbiamo corso, insomma, abbiamo recuperato un po' di terreno perduto. Ti faccio un'ultima domanda. E se è un consiglio utile o se è un po' una cosa marginale, tentare di non rivolgersi ad un unico fornitore di servizi per i nostri dati. Cioè, mi spiego, noi nel telefono, nel computer, in tutti gli strumenti abbiamo un sacco di dati, meglio se utilizziamo le soluzioni cloud utilizzare i servizi di un solo fornitore o cercare di avere una, come dire, fare una scelta multifornitore, cioè un po' di dati li do ad Apple, un po' a Dropbox, eccetera, eccetera. Allora, la scelta multifornitore è certamente vincente, nel senso che dal punto di vista dell'affidabilità, se uno dei due fornitori dovesse in qualche modo avere dei problemi, noi abbiamo comunque l'altro. Anche perché nessuno ci garantisce, per esempio, che l'account gratuito che abbiamo su Google sia perenne. Google potrebbe anche decidere di chiuderlo, non fallirà, credo proprio, però per esempio potrebbe magari a seguito di attacchi o di sospetti chiuderlo perché lo ritiene un problema. Google, essendo un fornitore di account gratuiti, ovviamente parlo di quelli gratuiti, quelli a pagamento sono diversi, può decidere a un certo punto che un account magari per sospetto utilizzo abusivo o fraudolento debba essere chiuso. Magari non è così, magari non è stato usato per fare nessuna frode, ma intanto di colpo tutto quello che c'è dentro scompare e quindi dovremo farci il backup del backup. Avere due fornitori chiaramente ci permette di tollerare la caduta di uno dei due. D'altro canto, avere due fornitori raddoppia la superficie di attacco e quindi dobbiamo essere attenti a due profili, non più soltanto a uno. Per cui la raccomandazione importantissima è: quando si fa il backup sul cloud presso questi provider come Google, Apple e così via, sempre attivare dal punto di vista della sicurezza tutte le opzioni relative all'autenticazione a due fattori, una cosa che oramai si dice da anni e probabilmente stancherà anche sentirla dire, ma meglio ribadirla. Non accontentarsi dell'utilizzo della semplice password, ma ad esempio attivare anche l'opzione dell'invio di codice di autenticazione sul cellulare, meglio ancora se tramite app, cioè noi leghiamo l'app che abbiamo sul cellulare con l'accesso al cloud, oppure con quelle chiavettine di autenticazione come YubiKey o simili, che però anche in questo caso per l'utilizzo privato non vedo così facile da utilizzare, perché bisogna avere con sé queste, sembrano delle chiavette USB in sostanza, che tra l'altro funzionano anche col cellulare perché tramite RFID si connettono al cellulare tramite connessioni di prossimità, e quindi io se ho la chiavetta vicino al cellulare riesco a accedere a un account, se la chiavetta è lontana dal cellulare non ci riesco ad accedere. Per i più paranoici queste chiavette sono chiaramente una delle soluzioni migliori, altrimenti l'autenticazione due fattori via SMS o via app va benissimo. Come si chiamano tecnicamente queste chiavettine? Utilizzano un protocollo chiamato 2FA. Alcune marche tra le più note sono la YubiKey, ma ci sono anche delle sottomarche che arrivano anche a costare fino a 4-5 euro l'una, quindi voglio dire, con 5 euro noi possiamo avere questi oggettini che inseriamo nella porta USB del computer, premiamo un tastino e forniscono loro il secondo elemento di autenticazione. Quindi se anche qualcuno ci dovesse rubare la password, non ha quella chiavettina che fornisce, premendo il tastino, quel secondo elemento che serve per entrare nell'account. Su cellulare si usano quelle wireless, perché sul cellulare la porta USB c'è, ma non è così facile da utilizzare. Bene, molto interessante come sempre. Grazie a Paolo Dal Checco per essere stato con noi. A presto, buon lavoro. Grazie mille a voi, buon lavoro. Oh, una cosa che non ho detto durante la trasmissione, la dico adesso alla fine. Abbiamo iniziato con questo aumento del compenso per coppia privata, che ci dà un po' il là della scarsa modernità del nostro paese, o meglio, di una parte del nostro paese, perché poi invece nella stessa nostra trasmissione dimostriamo che siamo molto bravi in alcuni ambiti innovativi e digitali. Dicevo, una parte del paese, tipicamente la politica e la pubblica amministrazione, con anche delle eccezioni, perché a volte la pubblica amministrazione ci stupisce per alcune cose innovative e ben fatte che vengono proposte. Non è che c'è una lista immensa. Ecco, invece dall'altra parte del mondo che cosa succede? Che Tesla diventa l'azienda a maggiore capitalizzazione del mondo. E si ripete una storia che abbiamo già visto sui mercati finanziari. Mercati finanziari che premiano non solo il sogno, ma il futuro. Una società che, pensate, produce, almeno vedremo poi quest'anno a quanto arriverà, però l'anno scorso grosso modo mezzo milione di automobili, ha superato per capitalizzazione all'inizio dell'anno già Volkswagen, pochi giorni fa Toyota, entrambi i produttori, quello tedesco Volkswagen e giapponese Toyota, producevano, perché quest'anno probabilmente produrranno un po' meno, poco più di 10 milioni di automobili. Quindi uno dice, ma com'è possibile? È possibile perché si premia il futuro, e quasi tutti i produttori di automobili stanno dimostrando che la strada tracciata da Tesla e da Elon Musk è la strada del futuro, la strada vincente, dove il software diventa sempre più importante, l'elettronica di bordo diventa sempre più importante e l'accoppiata tra software e hardware è vincente, con tutti i sistemi proposti appunto da Elon Musk e da Tesla. E non è un caso che tutti, o meglio, molti produttori, quasi tutti i produttori di automobili stiano seguendo quella strada. I tedeschi stanno investendo un sacco di risorse perché hanno capito che devono recuperare il terreno perduto. E noi ci abbiamo Dario Franceschini. Che cosa volete? No, non è che si può avere tutto dalla vita. Grazie come sempre per la vostra attenzione. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Ci risentiamo la prossima settimana con la prossima puntata.